ma solo perché la fatina era stata liquidata dalla coppia di falegnami una volta assolto il suo compito di gestazione. Allora, mentre ci addolcisce Mirko con la sua fisarmonica, perché voglio che non siano soltanto parole che facciano male, ma anche note che siano balsamo delle parole che fanno male, sentiamo Susi. Susi, buongiorno. Susi. Buongiorno, io sono Susi, volevo solamente dire che tutti pensano che l'utero in affitto va bene così, ma non pensano che questo bambino è stato nella pancia di una donna per 9 mesi e staccarlo di lì e portarlo non so dove dandoci del latte artificiale, ma sto bambino già fuori dalla pancia sente il profumo della mamma o no? Ma in questo caso con Pinocchio sente il profumo di pino. No, vediamo un pezzo di legno. E appunto volevo dire che c'è una bella differenza fra Pinocchio che è un legno e un utero in affitto di una donna che lo tiene lì per 9 mesi, ma scusi, no, oppure ma, non c'è differenza. Ma la fatina dei capelli turchini è una donna a tutti gli effetti. Io dico, è simbolico, metaforico. Quando Mastro Ciliegia porta il pezzo di legno a Mastro Geppetto, nella metafora collodiana, quello era già l'embrione fatto e pronto ad essere innestato nella fatina ai capelli turchini. Dicono pezzo di legno, ma è l'embrione pronto. Però io ho avuto un bambino, ho avuto, sono mamma, no? Che il bambino sente, quando lo prendevo in braccio, sente il profumo della mamma. E diceva, mamma, sento il tuo profumo. Diverse. Ma glielo diceva il bambino, mamma, sento il tuo profumo. No, ma è lui che lo sente. Ma se lei lo che ne sa, glielo diceva qualcun altro, lui sente che piange. Ma glielo diceva al bambino, mamma, sento il tuo profumo appena nato. Ma è naturale che lo sente. Ma lo, lo diceva o no? Io voglio dati scientifici. No, ma un bambino di 2-3 mesi non dice mamma. E allora non c'è evidenza, sentono. Non c'è evidenza scientifica. Giuseppe, il nostro storico di Pinocchio. Vediamo se lei riesce a corroborare quello che noi leggiamo come interpretazione, che non condividiamo, non è questa assolutamente una condivisione, ma dobbiamo dirla, rispetto ai dati storici. Allora, poteva esistere che in quel tipo di Toscana, in quel tipo di epoca, potesse esistere una convivenza di fatto di due uomini tollerata alla società del tempo? Sì, poteva essere. Questo per un ben semplice e preciso motivo che poi si accentua quando Firenze diventa capitale d'Italia, cioè la mancanza di alloggi. Soprattutto gli artigiani che erano single andavano a vivere insieme spesso. Quindi era un camuffamento, una coppia gay. Ipotizziamo una coppia gay, Mastro Ciliegia, sì, e Geppetto. Diciamo, erano delle necessità. Vogliono vivere assieme in quella Firenze. Anche legate al lavoro. Potevano benissimo fare, diciamo, una casa. Bottega, nessuno avrebbe detto nulla. Ecco. Nessuno avrebbe detto nulla. Nessuno avrebbe additato per strada. Nessuno avrebbe detto. Quindi nulla, vede, la società del tempo comunque dava delle scappatoie possibili, poter vivere serenamente la propria affettività senza bisogno di nasconderci. Questo però mi porta a pensare che questa teoria, almeno dal punto di vista storico, lei Giuseppe, come si chiama di cognome? Che ho detto solo il nome? Garbarino, Giuseppe Garbarino. Il professor Giuseppe Garbarino, che è uno storico. No, sono di... professore, vabbè, troppo buono. Grazie. Beh, in pinocchiaggine sì, però. promosso sul campo, ma non beh, l'abbiamo colto. Beh, comunque lei ha studiato, vedo che ha studiato e conosce la materia, quindi non potevo trovare di meglio. Mi conferma che comunque il contesto sociale avrebbe permesso qualcosa che oggi magari è molto più difficile, senza bisogno di rivendicazioni di piazza, Geppetto, certo, e Mastro, certo, Ciliegia, sì, sì, possono tranquillamente vivere la loro storia d'amore, travestirsi da donna, fare le feste, i festini e via dicendo, tranquillamente, perché era tollerato in quella società che due artigiani vivessero assieme. La vita dissoluta di Pinocchio è ulteriormente costellata da episodi che confermano la chiave di lettura queer dell'intero romanzo. Dall'ambiguo rapporto a tre con il gatto e la volpe, palesi nomi di battaglia di un'altra coppia votata ai riti di Sodoma, tipica la pratica mercenaria, tariffa 4 monete d'oro, del breath play o asfissia erotica che praticano a Pinocchio impiccandolo incappucciati in stile BDSM in un dungeon ad ambientazione agreste. Pinocchio non si risparmia alla partecipazione a un gay pride, denominato all'epoca Paese dei Balocchi, o a gitarelle ambigue assieme ad altri ragazzi di vita, alla volta di spiaggette isolate, con il finto pretesto di vedere il pesce cane.